Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Terremoto, via libera al decreto per la ricostruzione. Renzi dice non vi lasceremo soli. Tozza aprirà una fabbrica ad Arquata del Tronto, comune devastato dal sisma. Solo l'esercito può farmi lasciare il PD, dice Bersani dopo la direzione di ieri, ma il partito non ha ancora trovato una quadra su Italicum e voto sulla Costituzione. Forse in manovra la riforma degli studi di settore, verso la conferma del bonus 18enni e sgravi per i bonus produttività fino a 4.000 euro. Samsung conferma bloccata la produzione del Galaxy Note 7, tonfo dell'azienda in borsa che dice sicurezza dei clienti al primo posto. Parte nel caos la zona traffico limitato di Palermo, mentre Milano progetta modifiche all'area C, stop ai diesel Euro 4 da febbraio. I profughi su un bus, gli studenti su un altro, bufera su un sindaco del Savonese, apartheid, dicono dalla cooperativa che si occupa dei migranti. Legato l'ultimo abbraccio a mio marito, lettera di una donna che scatena polemiche sul policlinico di Bari, che replica rispettate le procedure. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno @radio24.it se ci volete scrivere. Andiamo in apertura nelle zone terremotate, dove è in visita il presidente del Consiglio Renzi. Oggi tra l'altro è stato approvato il decreto che riguarda appunto il terremoto. Il punto con Andrea Viali, buongiorno Andrea. Sì, buongiorno Simone, lo hai detto, Matteo Renzi sta visitando le zone colpite dal sisma del 24 agosto, lo avevamo promesso, non vi lasceremo soli, ha scritto stamattina su Twitter il Presidente del Consiglio, dopo il via libera da parte del Consiglio dei Ministri al decreto con le misure a sostegno delle popolazioni terremotate. Come prima tappa, in realtà Renzi è stato a Casette ed Ete, nelle Marche, e qui ha incontrato il patron della TOZ, Diego Della Valle, e lo ha ringraziato per la sua decisione di costruire una fabbrica ad Arquata del Tronto, che è, lo ricordiamo, uno dei comuni più colpiti dal sisma. Ma sentiamo le parole del Premier. Oggi il governo ha approvato il decreto legge sul terremoto, quindi la parte pubblica la stiamo facendo. Ci vorranno anni per ricostruire, sarà una impresa difficile, ma ci metteremo tutto ciò che serve, come abbiamo promesso ai sindaci e ai territori. È fondamentale che il paese mostri il proprio volto più bello. Renzi si sta spostando proprio ad Arquata, più tardi sarà anche ad Accumoli e ad Amatrice, con lui ci sono il capo della protezione civile Curcio e il commissario alla ricostruzione Errani che nel pomeriggio illustrerà a Palazzo Chigi i contenuti del decreto con il quale il governo ha stanziato i primi 200 milioni per la ricostruzione e per il rilancio delle attività produttive nelle zone colpite dal terremoto. Simone. Grazie Andrea Viali per questo aggiornamento. Siamo alla politica, la direzione del Partito Democratico di ieri che sancisce ancora una volta una rottura, per quanto non definitiva, almeno stando alle parole di Bersani di oggi. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Retromarcia sulla scissione. La minoranza PD non ha intenzione di lasciare il partito per le divergenze sul referendum e sulle riforme costituzionali. Chi ha responsabilità a tutti i livelli deve dire al mondo che non siamo al giudizio di Dio, spiega Pierluigi Bersani. Ma sentiamo cosa ha detto l'ex segretario PD. Invito tutti i commentatori a levarsi dalla testa il tema scissione. Per quel che riguarda me, portarmi fuori da casa mia ci può riuscire, cioè dal mio partito, ci può riuscire solo la Pinotti schierando l'esercito. Con meno non succede. Non esiste, non è mai esistito, né può esistere un vincolo di disciplina sui temi costituzionali. Ieri l'apertura in direzione nazionale del Premier Matteo Renzi sulla legge elettorale, modifiche su ballottaggio, collegi e premio di maggioranza, ma per la minoranza interna non è abbastanza e non ha votato la mozione. Nel frattempo l'ex presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida presenta due ricorsi al TAR del Lazio e al Tribunale Civile di Milano per il rinvio del quesito referendario alla Consulta. La protesta è che in un unico quesito vengono sottoposti all'elettore una pluralità di oggetti eterogenei. A te Simone. Grazie dunque Elisabetta Fiorito. Nel frattempo si lavora sulla manovra, ci sono novità tra l'altro di questa mattina, ovviamente sempre indiscrezioni, ma a questo stiamo in questa fase. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno, e così si lavora ultimi giorni per le modifiche alla legge di bilancio che il governo dovrebbe approvare sabato. Tra le novità il bonus 18enni che dovrebbe essere confermato con uno stanziamento di 270 milioni di euro, e poi ha annunciato tra le misure in arrivo il rafforzamento degli sgravi sui premi di produttività per i redditi fino a 80.000 euro l'anno. Ad essere detassati sarebbero i premi fino a 4.000. Ancora la riforma degli studi di settore, la riapertura dei termini per il rientro dei capitali in Italia, secondo quanto annunciato questa mattina dal vice ministro dell'economia Casero, il quale ha anche detto che si sta lavorando per cercare di abbassare il magazzino delle cartelle emesse da Equitalia. Ma ci sono nella manovra ancora molte partite aperte, tra cui le pensioni, ancora da definire platee e requisiti di chi potrà accedere all'anticipo pensionistico. Con le parti sociali dovrebbe esserci un altro incontro prima del varo della manovra. Entro sabato in realtà il governo concluderà il progetto di bilancio da inviare a Bruxelles, mentre per l'articolato vero e proprio da inviare alle Camere ci sarà tempo fino al 20. Una manovra che, come sappiamo, si basa sulle previsioni delineate nella nota di aggiornamento al DEF. Ebbene, dopo i dubbi e le polemiche, il ministro dell'economia Padoan tornerà a spiegare stasera queste cifre alle commissioni di Camera e Senato. Padoan, che ora si trova a Lussemburgo per l'Ecofin, dove il dibattito è quello sulla flessibilità che riguarda tutti i paesi della zona euro, ma già ieri il commissario agli affari economici Moscovici ha avvertito sì alla flessibilità, ma l'Italia deve continuare gli sforzi per ridurre il deficit. E da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi. Parliamo di Samsung adesso, meno 8% in borsa oggi dopo l'annuncio dello stop alla produzione del Galaxy Note 7. Arresto completo della produzione di Galaxy Note 7 da settimane nella bufera a causa di casi di esplosione delle batterie difettose, e da Samsung è arrivato anche lo stop alle vendite e alla sostituzione del dispositivo per il ripetersi, anche su modelli rimpiazzati, di episodi che hanno visto gli smartphone del colosso sudcoreano dell'elettronica prendere fuoco. In più, nuovo crollo delle azioni di Samsung Electronics, che hanno chiuso in calo dell'8% alla borsa di Seoul. L'annuncio della sospensione globale è arrivato dalla stessa Samsung in vista di un'inchiesta interna sugli incidenti. In un comunicato diretto ai suoi partner mondiali, compagnie telefoniche e rivenditori, il 2 settembre Samsung aveva infatti dovuto ordinare il ritiro di 2,5 milioni di esemplari e in molti casi sostituirli. La sicurezza dei consumatori è la nostra priorità, scrive Samsung, che ha consigliato ai clienti di spegnere e non utilizzare gli apparecchi. Una decisione che arriva a poche ore dallo sbarco dopo 5 anni della guerra degli smartphone con Apple alla Corte Suprema americana. Il primo caso sui brevetti dal 1800. Previsto oggi il verdetto su Android, il sistema operativo di Google che gira sugli smartphone Samsung. Intanto l'aviazione americana mette in guardia i passeggeri su uso e trasporto del Galaxy Note 7. Non attivare o ricaricare questi dispositivi a bordo di aerei e non stivarli in alcun bagaglio. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Andiamo ora tra Palermo e Milano. Nella prima viene introdotta la zona traffico limitato, nella seconda si progettano modifiche ed estensioni dell'area C. Sentiamo. 14.000 pass su 82.000 aventi diritto, oltre 600 veicoli controllati, quasi 300 multe. Un bilancio pesante, ma la polizia municipale è soddisfatta. Poco traffico dentro la ZTL, qualche ingorgo lungo il perimetro, ma solo nelle ore di punta. Così Palermo affronta oggi la seconda giornata di traffico limitato. L'accesso con il pass è consentito a tutti i residenti, a 80-90 euro l'anno, a 100 euro invece per chi non risiede ma deve accedervi per lavoro, cure mediche, figli a scuola e così via. Nuove regole intanto anche a Milano, dove è già attiva l'area C. L'obiettivo della Giunta Sala è ridurre dell'8% il traffico nel cuore della città, penalizzata dai cantieri per la nuova metro. Per farlo, da febbraio la cerchia dei bastioni sarà vietata alle diesel Euro 4 e verrà introdotto il pedaggio per GPL e metano. In più ci saranno nuovi divieti orari per il carico e scarico delle merci la mattina e la supertassa per i bus turistici. Vista la riapertura al traffico di Piazza Castello. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo all'estero adesso, iniziamo dalla Germania, dove la Polizia Federale ha comunicato il cessato allarme alla stazione di Rastatt in Germania, appunto, dove una telefonata questa mattina aveva annunciato una bomba. La stazione è di nuovo libera, le nostre ricerche non hanno dato risultati, ha scritto la stessa Polizia Federale sul suo account Twitter. Nel frattempo la cancelliera tedesca annuncia un pacchetto di aiuti per il Niger per frenare il flusso di migranti, e lo fa proprio dall'Africa. Che ci fa la donna più potente d'Europa seduta in una scuola di Niamey, in Niger, uno dei paesi più poveri al mondo? La cancelliera tedesca da 3 giorni in Africa, è stata in Mali, ieri era in Niger, oggi in Etiopia e una volta a Berlino incontrerà il presidente della Nigeria e del Chad. Il filo conduttore, è chiaro, è la collaborazione nella politica sulle migrazioni. Chiusa la rotta balcanica con l'accordo Ankara-Bruxelles che funziona, per chiudere anche la rotta del Mediterraneo, Angela Merkel sembra convinta che bisogni lavorare all'interno di progetti di aiuto allo sviluppo per gestire i flussi dei paesi di partenza. La Germania lo fa a titolo personale, ma nella partita europea di contenimento dei flussi sembra sempre più giocare un ruolo fondamentale. E in un'Europa in cui Theresa May è sempre più schiacciata su posizioni anti-europee e anti-immigrazione, Angela Merkel sembra voler rappresentare l'Europa opposta, baluardo dei valori di accoglienza da una parte, ma anche pragmaticamente volta a stringere accordi di contenimento dall'altra. E in questo a giocare un ruolo di primo piano fra i paesi europei. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'accordo con la Turchia e l'apertura ad un taglio della produzione di petrolio. È l'1-2 messo a segno da Putin. Ieri ne parliamo con Sissi Bellomo del Sole 24 Ore, che è in diretta con noi. Sissi, eccoci, buongiorno. Sì, buongiorno. Effettivamente abbiamo visto in questi giorni un grande attivismo da parte della Russia in campo energetico. È stato resuscitato, diciamo, l'accordo con la Turchia per la costruzione del Turkish Stream, il gasdotto che passerà sotto il Mar Nero, permettendo a Mosca di aggirare l'Ucraina. E la Russia si è anche fatta avanti con forza per rilanciare l'ipotesi di un taglio della produzione del petrolio, quantomeno di un congelamento della produzione di petrolio, in azione congiunta con l'OPEC. Sono questioni separate, molto diverse tra loro, però in fondo hanno un filo comune. Vediamo la Russia che sta riavvicinandosi a paesi che sono storicamente opposti, nemici dal punto di vista geopolitico, in nome dell'interesse economico, dell'interesse verso la realizzazione di obiettivi nel campo dell'energia. Si farà quindi, probabilmente, salvo nuove sorprese, il gasdotto Turkish Stream, e si farà forse il taglio di produzione con l'OPEC, dico forse, perché in realtà la Russia non ha certo un passato di grande obbedienza verso impegni presi nei confronti dell'OPEC. E già stamattina la Reuters batteva una notizia secondo cui Sechin, il potentissimo CEO di Rosneft, che da sola fa il 40% della produzione russa, ha detto: no, non ho nessuna intenzione di limitare la produzione, noi siamo in crescita. E grazie a Sissi Bellomo per questo aggiornamento. Torniamo all'Italia, ancora una donna uccisa, ancora una volta, dal marito. Era stato proprio lui a dare l'allarme, raccontando di aver fatto ritorno a casa e aver trovato la moglie priva di vita, con una ferita alla testa. Questa mattina però Ruggero Lodola, torinese di 70 anni, ha confessato di aver ucciso lui la moglie Santina Lodi, coetanea. Nell'appartamento infatti non c'erano tracce di colluttazione né segni di infrazione, circostanze che hanno portato i carabinieri a sospettare del pensionato. Al termine di un lungo interrogatorio, l'uomo ha infatti confessato, raccontando di aver ucciso la donna. Con inaudita violenza hanno poi ricostruito gli inquirenti a calci e pugni, al termine di una lite per futili motivi. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oggi è una giornata dedicata ai diritti delle bambine. Si parla molto di spose bambine, ce n'è una ogni 7 secondi nel mondo. È un fenomeno che naturalmente riguarda paesi lontani, ma riguarda anche l'Italia. Oggi è il giorno più bello della mia vita, compio 10 anni, mi sposo col mio principe azzurro, è un amico di papà, lui ne ha 47. Non solo nell'Afghanistan dei talebani o nel lontano Yemen, succede ancora anche nella Calabria dei nostri giorni. Bambine promesse in matrimonio ad uomini ben più grandi che diventano il tramite per alleanze tra clan e loro spose bambine per patti di 'ndrangheta. Così nella Locride una 13enne è stata costretta ad un fidanzamento forzato col rampollo dei Comiso, potente famiglia della zona, come ricostruito costruito da storiacce. Lei non vorrebbe, ha simpatia per un coetaneo, ma alla fine, sotto le pressioni della mamma, cede, con la consapevolezza che questo significa un matrimonio di lì a poco e subito l'abbandono delle lezioni. Così è previsto nel codice dell'Andrangheta e questo confermano i dati del Ministero dell'Istruzione, una realtà che provò a denunciare padre Emanuele Maggioni, ex parroco in Calabria. Le alleanze poi sono fatte dai grandi, dagli adulti, e questi bambini dopo 13 o 14 anni non vanno più a scuola. Finita la terza media, per loro ho finito le scuole perché c'è già questo impegno. La speranza per le bambine sta in quelle mamme coraggiose che, come Giusy Pesce, che a 13 anni aveva già partorito il suo primo figlio, si è ribellata all'Andrangheta per dare ai figli un'alternativa, come ricorda il PM Alessandra Cerreti. Giusy Pesce è riuscita a tenere fede al suo impegno con lo Stato, lo ha fatto nell'interesse dei propri figli, per assicurare ai propri figli, che altrimenti avrebbero avuto un destino segnato, un futuro di libertà. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E la nostra Raffaella Calandra a questo ha dedicato una puntata della sua trasmissione Storiacce, la potete trovare sul nostro sito www.radio24.it. Ci occupiamo adesso di sharing economy prima di andare a sentire cosa succede sulle strade, perché c'è stata la protesta dei fattorini in bicicletta di Foodora che accende i riflettori sul tema del lavoro ai tempi della sharing economy. È pronta a sbarcare anche a Milano la protesta dei fattorini di Foodora, la piattaforma per le consegne di cibo a domicilio, che a Torino minacciano lo stop e invitano i consumatori a boicottare il servizio per solidarietà. Siamo sottopagati poco più di 2 euro a consegna e iperprecarizzati, denunciano. Valore complessivo della startup tedesca, per la cronaca, 3 miliardi e mezzo di dollari. Il settore del food delivery è quello su cui l'economia dei servizi on demand sta scommettendo in questo momento. Muove un giro d'affari di 400 milioni di euro ed è una delle aree di investimento più vivaci per i venture capitalist di tutto il mondo. Per i consumatori, gli stessi che hanno trainato il di Uber, Airbnb e di tutte le piattaforme della sharing economy, in Italia le usa 1 su 5, i vantaggi sono innegabili. Per i lavoratori però le zone grigie sono molte, ancora tutte da chiarire, e ruotano intorno a una questione centrale: sono dipendenti o autonomi? Valerio De Stefano insegna diritto del lavoro alla Bocconi ed è uno dei primi giuristi italiani ad essersi occupato del lavoro nella nuova economia dei servizi online. Non si dice stupito delle proteste di questi giorni e invita a parlare non di sharing economy, ma di gig economy, l'economia del lavoretto. Non c'è niente di condivisione, non ha proprio senso parlare di sharing economy in questo caso, per cui si usa questo termine di gig economy, però in realtà si farebbe prima a parlare di lavoro, attività lavorative e mercato del lavoro in generale. Siamo ancora agli embrioni dal punto di vista della riflessione lavoristica su questi fenomeni, per cui è difficile che il legislatore si muova con una legislazione ad hoc, che fra l'altro non è detto nemmeno sia necessaria. In molti casi qui si tratta di distinguere tradizionalmente fra lavoro autonomo e subordinato. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Con un po' di ritardo andiamo alla linea al traffico, poi ritorniamo e iniziamo il nostro giro per l'Italia, e iniziamo da Roma, dove delle famiglie stanno protestando, e dobbiamo dire la verità, è una bella protesta in una scuola nella quale mancano gli insegnanti di sostegno. Ebbene, anche i genitori degli alunni normodotati hanno detto: sapete che c'è, li tiriamo fuori anche noi dalla scuola 2 ore prima, perché per solidarietà nei confronti degli altri compagni di classe. A poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto, a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato del via libera al decreto per il terremoto, dello scontro ancora aperto all'interno del Partito Democratico, degli aggiornamenti sulla manovra, dei problemi della Samsung, e abbiamo parlato anche della strategia energetica di Putin. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e iniziamo da Montesacro, che è un quartiere di Roma. Bene, nei giorni scorsi e nelle settimane scorse molto vi abbiamo parlato dei problemi che si stanno vivendo in parecchie scuole per l'assenza di insegnanti di sostegno. In parte mancano i soldi, in parte non sono stati ancora assegnati. Ebbene, una scuola di Montesacro, la Montessori di Montesacro, alcuni genitori, i genitori dei bambini normodotati, hanno deciso di mettere in atto una protesta singolare. Ce la racconta Luca Blasi, che è uno di loro. Buongiorno Blasi, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Allora, che cosa state facendo? Niente, a inizio anno noi ci siamo trovati con le ore delle C e del sostegno tagliate e per cui praticamente una serie di bambini, di alunni, sono stati costretti a uscire prima dalla classe, bambini chiaramente con delle disabilità, a volte anche gravi, perché non c'era né l'insegnante di sostegno né l'AIC, l'assistente educativo e culturale, che permettesse la loro permanenza in classe. E quindi le famiglie erano costretti a portarli via per permettere al resto della classe di poter continuare il normale svolgimento della lezione. Molti dei miei genitori abbiamo sempre considerato la scuola come una comunità, dove se qualcuno ha un problema proviamo a farci carico un po' tutti, prendendo un pezzettino di questo problema, e ci è sembrato insomma un'ingiustizia molto grande questa qui, sì, che dei bambini già con delle grosse difficoltà non potessero in qualche modo vivere normalmente la vita e l'orario scolastico. Noi abbiamo deciso che se esco loro usciamo tutti, e quindi oggi con forma di solidarietà alle 2:20 prendiamo tutti i nostri figli scrivendo sulla giustificazione assenza delle C sul permesso e li portiamo a casa con il motto: se esce uno usciamo tutti. E quindi insomma, avete scelto la giornata di oggi, avete intenzione di proseguire in questa forma di protesta? Noi vogliamo farlo, intanto oggi è un primo passo e dobbiamo dire che la risposta è incoraggiante, nel senso che non solo la nostra scuola ma anche altre faranno questa cosa. Sta avendo tantissima gente anche del quartiere fuori a sostenere questa iniziativa e c'è stata una grandissima visibilità sui giornali e sui media, per cui noi sicuramente intanto oggi facciamo questo, e io ci tengo anche a dirlo, innanzitutto un gesto di solidarietà umana. Poi è chiaro che dietro c'è anche una critica ai tagli fatti dalla riforma della scuola, c'è una critica come viene gestito, cioè il fatto che sono stati tolti gli insegnanti di sostegno e che quindi quelle ore devono essere coperte con gli AC, ma molto spesso ci sono bandi con ricorsi ancora in corso, quindi insomma c'è una situazione molto complicata, però a pagarne le spese sono i soggetti spesso più deboli e svantaggiati, e questo non è giusto. Grazie, grazie a Luca Blasi per il suo racconto. Come sentite, i problemi continuano a moltiplicarsi all'interno delle scuole su questo fronte. Ci occupiamo di altro, adesso ci occupiamo di migranti, e per farlo nel nostro giro per l'Italia andiamo a Calizzano, provincia di Savona. In linea con noi c'è il sindaco Pierangelo Olivieri. Sindaco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Allora, i titoli sono terrificanti, le devo dire, perché sui giornali abbiamo trovato, sul Secolo XIX, sulla Stampa, apartheid sugli autobus. Cioè, un autobus per i migranti e uno per gli studenti, è così? Io sono, prima che istituzionalmente, umanamente abilito da questi titoli assolutamente privi di alcun fondamento. Sono uscito poco fa dal prefetto, da una riunione prefettura con Sua Eccellenza il prefetto dottor Manari della provincia di Savona e i vertici della cooperativa Il Faggio. Come richiesto dal prefetto, verrà emanato poi un comunicato stampa ufficiale, e la situazione è ben diversa. Io vorrei semmai... Sì. Ci spieghi però, certo, Olivieri, come funziona qua, perché quello che abbiamo visto noi è una sorta di consiglio ai profughi, ai richiedenti asilo, ai migranti, di utilizzare autobus che non vengano utilizzati dagli studenti. Capisce che la cosa suona un po', no? No, certo, ma non è così. Io ho le parole forti che ho usato, di cui sono responsabile come uomo e come sindaco, sono sensibilizzazione e buonsenso. Noi siamo a 30 chilometri mediamente dalle scuole superiori, come dagli ospedali, come dai centri. Siamo un piccolo comune nell'entroterra savonese, al di là dell'Appennino versante padano, e i nostri scolari vanno verso Finale in Ligure, in Riviera, oppure nel centro della Val Bormida, Cairo, Carcere, e devono partire con un pullman di linea, perché il sistema da 8 anni non è più in grado di assicurare un pullman riservato agli studenti. Uno scuolabus, diciamo così. Sì, certo. E dunque questo pullman, che ha 48 posti, da noi abbiamo una struttura di ben 40, che ospita ben 40 migranti richiedenti asilo da oltre 2 anni, dunque oltre ogni percentuale di cui si parla a livello nazionale, perché siamo vicini al 3%, non sì. al 3 per 1000, e, perché siamo in 1400 sì. Abitanti nel comune. Si è creata questa situazione, me l'hanno fatta presente genitori degli allievi, che c'era questo problema. Ma qual è il problema? Non ho capito. Il problema è che abbiamo un pullman da 48 posti che al mattino dovrebbe ospitare, sommando gli studenti presenti normalmente, qualche lavoratore che usa il pullman, e dai 7-8 ai 15 migranti circa ospiti della struttura in Calizzano, che di questi 40. Ma quindi mi scusi, riassumo, Olivieri, sì. Quindi il problema è pratico, cioè il problema è semplicemente pratico, cioè non ci sono i posti sul pullman, cioè non è una cosa, dice gli studenti non vogliono stare con i profughi, cioè, no. Ho detto non ci stiamo, ci confrontiamo, ci parliamo, c'è un pullman prima e ce n'è uno dopo, l'esigenza di orario sono conciliabili, oppure ci confrontiamo nell'incontro che ho avuto ieri sera, ed ero molto contento, uscito dall'incontro con il responsabile di TPL, che è il gestore pubblico del servizio, e la cooperativa. Capiamo se c'è veramente questa esigenza coincidente di orario, e allora parliamo con TPL, potenziamo il servizio, non apartheid, mi sono arrivate email di insulti. Ma la stessa cooperativa che gestisce i profughi, con la quale lei ieri ha avuto una riunione, l'ha attaccato durissimamente. Ma come mai? Perché tra l'altro questa mattina, pochi minuti fa dal prefetto, i vertici della cooperativa hanno precisato che quelle dichiarazioni non sarebbero mai state, poi vedremo come le gestiranno. Io ovviamente le devo gestire anche a livello personale, io sono, oltre che sindaco, un uomo, un avvocato, e ho 3 figli piccoli, e devo pensare anche alla mia persona, oltre che all'istituto, all'istituzione e all'ente che rappresento. Io ieri con i loro operatori presenti abbiamo parlato, le parole forti che ripeto sono state sensibilizzazione e buonsenso. È necessario utilizzare alle 6:30 quel vettore, quel mezzo indissolubilmente, non può essere preso quello delle 5:45 prima o quello dopo delle 11, purtroppo il nostro territorio non ha altri mezzi di linea. Se sì, allora parliamo con chi di dovere per potenziare. Se no, capiamo come diversamente si può fare. Si la può mia fare, richiesta cioè, era solo questa. Solamente ci mancherebbe questa. Allora, noi abbiamo una convenzione sì. di lavoro volontario di formazione. La nostra polisportiva ha coinvolto alcuni ospiti della struttura da tempo, e abbiamo vinto anche un premio a livello regionale, primi e decimi a livello nazionale della Federazione Italiana Gioco Calcio, su un progetto di integrazione. Il dato è totalmente diverso. Ovviamente qualcheduno mi dovrà spiegare perché sono usciti quei titoli che hanno abbinato la mia persona con una foto su uno dei giornali più letti a livello locale, ma è nazionale, il Secolo XIX, ai termini apartheid e razzismo, che non mi sono propri per cultura, per valori cristiani e per ideologia personale. Dunque assolutamente li rigetto. La ringrazio. Grazie Pierangelo Olivieri, sindaco appunto di Calizzano, siamo in provincia di Savona. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, c'è la borsa come sempre, e poi ci ritroviamo subito dopo, proseguiamo il nostro giro per l'Italia, a partire da una vicenda che riguarda il Policlinico di Bari, al quale è arrivata una lettera da una signora che dice: mi avete negato l'ultimo abbraccio a mio marito. Il Policlinico si difende nel comunicato, devo dire la verità, con un po' di burocratese, poca umanità, ma le regole sono state rispettate. Pausa, tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: per il terremoto c'è stato il via libera al decreto per la ricostruzione, Renzi è in visita nelle zone colpite dal sisma, Toz fa sapere che aprirà una fabbrica ad Arquata del Tronto, comune devastato appunto dal terremoto. Bersani, dopo la direzione del Partito Democratico di ieri, dice: solo l'esercito può farmi lasciare il PD, ma non c'è ancora una quadra su Italicum e voto sulla Costituzione. Forse in manovra potrebbe arrivare la riforma degli studi di settore, lo dice il viceministro Casero, indiscrezioni verso la conferma del bonus diciottenni e sgravi per i bonus produttività fino a 4.000 euro. Samsung ha confermato, si ferma la produzione del Galaxy Note 7, tonfo dell'azienda in borsa, perde l'8%, la stessa azienda dice la sicurezza dei clienti è al primo posto, la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Prima di proseguire il nostro giro per l'Italia, vi do conto delle dichiarazioni che stanno arrivando in questi minuti dal ministro dell'economia Piercarlo Padoan al termine dell'Ecofin. Ebbene, ieri il commissario europeo agli affari economici e monetari Pier Moscovici aveva detto la flessibilità sì, ma giocare con le regole no. Padoan risponde: noi non giochiamo con le regole. Apparentemente una risposta piuttosto polemica. Bisogna vedere quali sono state in realtà le domande che sono arrivate dai giornalisti. Nel nostro giro per l'Italia adesso ci spostiamo a Bari. C'è una vicenda che sta facendo discutere ed è una lettera inviata ad un quotidiano, diciamo l'edizione locale del quotidiano La Repubblica, da parte di una signora che si chiama Rosa Mastrangelo, la quale denuncia sostanzialmente che le è stato negato l'ultimo abbraccio al marito, che era ricoverato al Policlinico di Bari. Secondo la signora sono state violate tutte le regole di trasparenza e di umana etica, perché le è stato impedito sostanzialmente di stare appunto nelle ultime ore del marito accanto a suo marito e di abbracciarlo nel momento della fine. Abbiamo in linea con noi Vitangelo Dattoli, che è il direttore generale del Policlinico di Bari. Buongiorno Dattoli, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, ci dice cosa è successo? Ma come abbiamo visto la segnalazione, che devo dire conteneva all'interno una descrizione elogiativa della funzionalità del Policlinico in questi anni, che sono insomma ha prestato assistenza al signore che purtroppo è deceduto per questa patologia neoplastica e che di cui si sottolineava appunto l'efficienza, abbiamo subito capito che la lagnanza, la lamentela, il rammarico, ecco il termine più giusto, era riferito all'ultimo momento, che non è stato in regime di ricovero, bensì in una prestazione di pronto soccorso. Quindi immaginiamoci, e di questo voglio dire, sono particolarmente colpito e dispiaciuto veramente che sia mancato questo momento, diciamo, emotivamente importante e anche spiritualmente, oltre che di questo ultimo momento di conforto da parte della signora e di suo marito. Devo solo dire che non è venuto in regime di ricovero, ma il paziente che ha avuto un improvviso aggravamento, comunque era in condizioni molto gravi, giunge ovviamente al pronto soccorso, a cui era stato anche inviato dal reparto accettante, che per questi anni aveva egregiamente, come diceva la signora, assicurato le cure per il paziente. Il nostro pronto soccorso è uno dei più grandi d'Italia, è dotato di una terapia intensiva di pronto soccorso nella Sala Rossa, oltre che di servizi autonomi a servizio esclusivo del pronto soccorso, cardiologia d'urgenza, radiologia d'urgenza e così via. Il paziente è subito entrato, è stato classificato come codice rosso ed è stata avviata una serie di procedure che prevedono un lavoro intensivo che ha tra i suoi aspetti quello di ovviamente escludere la possibilità di contatto esterno, che chiaramente nell'esigenza di concentrazione cronologica dell'attività può ovviamente creare nell'interesse esclusivo del paziente una riduzione delle chance, delle possibilità di salvare una persona in grave condizione. Quindi in sostanza voi avete dovuto concentrato in emergenza al pronto soccorso, nella Sala Rossa, nella terapia intensiva, chiaramente è ridotto al massimo perché il paziente deve essere ovviamente radiografato, suo posto attacco, esami di laboratorio, elettrocardiogramma, accertamenti di indagini metaboliche. In questo trambusto, in questa concitazione tipica ma sempre razionale e scientifica, ovviamente è venuto meno la possibilità di far vivere questi momenti finali, questo paziente che purtroppo era terminale, alla signora. Gliela qualcosa, mi scusi Dattoli, la sostanza di quello che ci sta dicendo è che non poteva essere fatto diversamente vista la situazione le condizioni del paziente. Io preferisco dire che purtroppo non sembri una risposta burocratica, sono state rispettate i regolamenti e le procedure che inibiscono addirittura il contatto esterno nel momento di emergenza. Di qui a dire che fosse un momento di, come dire, di maggiore calma, maggiore tranquillità, avrebbe consentito, perché era inutile, eravamo ai limiti dell'accanimento terapeutico, era forse inutile, come dire, bloccare in questa maniera così ermetica pur di consentire alla signora di essere presente negli ultimi istanti della vita, probabilmente, forse contravvenendo a delle regole, contravvenendo delle procedure, contravvenendo dei protocolli, si sarebbe potuta avere una maggiore flessibilità, lei dice, da questo punto di vista. Contravvenendo però, lo devo dire, a procedure e protocolli, insomma, che sono ovviamente gli standard di accreditamento di pronto soccorso e di settori di emergenza. E che, cioè, che sono codificati, insomma. Lei ha sentito la signora? No, veramente ho affidato alla, sto cercando attraverso l'URP di avere un contatto per, come faccio verificare, per spiegare il mio dispiacere personale, però motivando che onestamente non individuo, come dire, limiti, se non poi magari, perché ho letto nella lettera che magari erano dei discorsi empatici che lamenta, e quelli sono legati alle sensibilità individuali, ma purtroppo da un'analisi, diciamo, prima facie però già approfondita, onestamente di un rispetto quasi in quelle poche ore al pronto soccorso, perché si è trattato di poche ore al pronto soccorso, un rispetto completo di queste di procedure, di attenzione all'emergenza, che chiaramente ha fatto venire meno la possibilità di una soluzione. Sì. La ringrazio, grazie a Vitangelo Dattoli, direttore generale del Policlinico di Bari, per essere stato con noi. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.